La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 25° anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il 40° anno. L'articolo 58 pone le regole di elettorato per il Senato. Infatti ci ricorda che i senatori sono eletti con suffragio universale e diretto, ma solo dagli elettori che hanno superato il 25° anno di età, mentre sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i 40 anni di età. L'articolo 58 quindi sancisce e ribadisce una importante differenziazione di elettorato attivo e passivo rispetto alla Camera, in quanto pone età differenti per eleggere e per essere eletti. Una curiosità importante sull'articolo 58 riguarda la possibilità di suffragio diretto degli elettori, di suffragio universale, in quanto in Assemblea Costituente si era pensato di differenziare la Camera e il Senato anche in base alla modalità di elezione. Soprattutto per il Senato si era pensato di poter far eleggere una parte, una quota dei senatori dai consigli regionali per dare una rappresentatività mista, una parte eletta dai cittadini direttamente e una parte dai consigli regionali. Invece venne presa la decisione finale di rendere le Camere del tutto uguali e quindi che l'elettorato fosse diretto e universale sia per la Camera sia per il Senato. Un'altra curiosità interessante è il numero dei senatori, in quanto il numero dei senatori non è fisso ma variabile. Perché è vero che ci sono 315 senatori, ma poi si possono aggiungere i senatori di diritto. Ma di questo parleremo nell'articolo 59.